Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Molti dei nostri amici lo hanno già fatto. Atena, per esempio, a Berlino c'è andata con i tre figli e il suo compagno. Tommaso è a Londra, Monica a Parigi, Cosimo in Svizzera ed Ermanno ed Eleonora addirittura sono finiti in Nuova Zelanda. Cari Luca e Gustav, volevo che i miei figli crescessero in un paese più affine ai miei valori e al mio pensare. Cari Luca e Gustav, ero stanco di un sistema universitario nepotistico e autoreferenziale. Dover accettare lavori mal pagati. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Italy, love it or leave it, amatela o abbandonatela, come suggerisce il titolo di un bel documentario sull'Italia che sarà presentato la prossima settimana e del quale avete appena ascoltato l'inizio davvero emblematico. Con questo dilemma, restare o andarsene, che accomuna centinaia di migliaia di giovani, apriamo la terza stagione del nostro programma. Sarà una ripresa col turbo. Continueremo a raccontarvi storie di giovani outsider, professionisti che sono qualcuno oltre le Alpi e che nel bel paese avrebbero probabilmente continuato ad essere nessuno. Degli Ulisse senza biglietto di ritorno, giovani che hanno lasciato una patria che ancora non ha imparato come immeritocrazia, nepotismo e gerontocrazia non stimolano la crescita, lo sviluppo e l'innovazione, ma li annichiliscono. Oggi una storia davvero straordinaria per festeggiare la prima puntata della serie autunnale di Giovani Talenti. Grazie per essere di nuovo con noi. Se avessi o no trovato le condizioni per l'aver avuto successo in Italia, direi che è una domanda che possiamo farci, ma non è facile trovare una risposta. Lorenzo Teone, 32 anni, è un produttore teatrale e innovatore italiano, meglio noto come l'ideatore del motore di ricerca internet Bing. Lorenzo vive tra New York e San Francisco. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario con il meglio delle news dell'estate. Circa 39.000 persone hanno lasciato l'Italia nel 2009, secondo l'Istat. Si tratta del 60% dei residenti cancellati per espatrio, in prevalenza si emigra verso Germania, Gran Bretagna e Svizzera. Il 15% di loro, quasi 6.000, sono laureati, si dirigono principalmente verso Regno Unito, Svizzera e Germania. Interessanti le percentuali di laureati sul totale degli emigranti per singolo paese, le più alte si registrano verso Brasile, Cina e Olanda. Parliamo di lavoro giovanile in Italia. Sono 1.138.000 gli under 35 disoccupati. Il nostro paese per Confartigianato detiene il record negativo in Europa. A stare peggio i ragazzi under 24. Il primato regionale è della Sicilia. Per Data Giovani nel 2010 oltre 427.000 under 35 hanno perso il lavoro. La metà sono ora inattivi. E aumentano proprio i giovani che non lavorano né studiano, sono il 28,8% nella fascia 25-30 anni, lo afferma il CNEL. Per l'Istat la disoccupazione giovanile ha registrato a luglio quota 27,6% in Italia, tra le peggiori d'Europa. Linda Laura Sabbadini, direttore statistiche sociale Istat, al microfono di Valentina Furlanetto. La crisi ha colpito in particolare i giovani, l'80% dei posti di lavoro che si sono persi, della diminuzione di occupazione era giovanile. Questo ha fatto sì che la povertà non aumentasse, perché la maggioranza di questi giovani viveva all'interno della propria famiglia di origine, però crea ovviamente un problema di prospettive proprio per una generazione. La situazione peggiore al sud, 2 giovani su 3 nel mezzogiorno sono disoccupati, lo afferma la Svimez, secondo cui la situazione è pesante anche per i laureati under 34 e il 30% di loro non lavora né studia. Luca Bianchi, vice direttore Svimez, intervistato da Simone Spezia. Qui c'è un problema proprio di modello di sviluppo del sistema paese, perché il dato che diventa, diciamo, acutissimo nel mezzogiorno in realtà è abbastanza forte anche nel centro-nord. Riguarda, secondo noi, un modello di specializzazione produttivo ancora molto schiacciato su settori a basso valore aggiunto, settori tradizionali, con una prevalenza di piccola e piccolissima impresa che offre pochissime opportunità per i giovani meridionali. E non va meglio al nord. Secondo Data Giovani sono sempre meno i lavoratori dipendenti nella fascia under 35. Nella 2010 erano 4 milioni, il 12,6%. A sorpresa la flessione peggiore nel settentrione, con punte che sfiorano il 20% in Friuli, Venezia Giulia e Piemonte. E lo scandalo, secondo l'ISFOL, è come si entra nel mondo del lavoro. La raccomandazione di amici e parenti continua ad essere in Italia il mezzo principale. Secondo lo studio, il 37% degli occupati ha ottenuto un impiego grazie alla segnalazione di qualche conoscente. Tra i più giovani la spintarella sale al 40%. Il fenomeno risulta in crescita. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un capo del settore finanza allo European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania. Scadenza per i CV 30 settembre, info su embl.org/jobs. Un International Trade Manager alla Japan Tobacco International, sede di Ginevra, scadenza per i CV 29 settembre, info su jti.com. E infine un Funding Manager settore ricerca e sviluppo per General Electric a Bruxelles, scadenza per i CV 30 settembre, info su jobs.gcareers.com. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti per raccontarvi un'altra vicenda straordinaria che abbina perfettamente genio italico e dinamismo americano. Nome: Lorenzo. Cognome: Sione. Età: 32 anni. Città di origine: nato e cresciuto a Milano. Studi: al Politecnico di Milano prima, poi completato il percorso di studi al University of Texas in Austin. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Austin. Perché? Poter restare negli Stati Uniti e completare gli studi e iniziare una carriera. Quale lavoro svolge attualmente? Sto sviluppando e producendo un nuovo musical in rotta per Broadway nel 2012-2013. Dove? San Francisco, New York. Tornerai? Per adesso torno in visita, nel futuro chi lo sa. Incontrare questi italiani di frontiera è stata un'esperienza straordinaria per capire come il loro talento e la loro creatività abbiano un valore eccezionale in campo globale. Ma anche per individuare, grazie a loro, cattive abitudini, luoghi comuni di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli, modo di pensare al quale siamo abituati e che invece frena l'innovazione, penalizza il merito e blocca chi sa immaginare il futuro. Roberto Bonzio, giornalista e ideatore del sito web Italiani di Frontiera, ci introduce al variegato mondo dei connazionali che, oltreoceano, negli Stati Uniti, stanno progettando il futuro. Lorenzo, tu sei celebre per aver ideato il motore di ricerca Bing. Spiegaci, chi è l'italiano di frontiera? Esce al di fuori dei confini del paese, ma alla fine è la metafora per l'italiano che esce dai confini del passato, dai confini dello stabilito, dai confini dell'innovazione. Non sono uscito dall'Italia pensando di andare a fare l'imprenditore. Ho incontrato persone straordinarie che mi hanno creato non solo un circolo di supporto, ma anche di amplificazione delle mie idee. La ragione per cui mi trovo a fare il produttore sembra così diverso, ma in fondo il percorso è lo stesso. Devi credere in ogni idea, devi convincere attraverso la tua passione, coinvolgendo gli altri. Lorenzo, in un'intervista hai così riassunto lo spirito americano, perché innovazione e creatività trovano terreno fertile negli Stati Uniti e non qui. E la creatività e l'innovazione sono tre facce della stessa medaglia. Il valore principale di quello che succede negli Stati Uniti è che c'è una vera e propria cultura del rischio che avviene da entrambi i lati, sia dal punto di vista dell'imprenditore che si fa vincere dalla propria passione e che affronta il rischio come una challenge e come un'opportunità, sia che dal punto di vista dei finanziatori e degli investitori. Lorenzo, ripercorriamo allora insieme a te questa tua eccezionale avventura. Ti iscrivi nel 97 al Politecnico di Milano. Perché questa scelta? A quell'epoca io pensavo che così la mia carriera dovesse essere fosse centrata sull'informatica, computer science, era il mio background ed era la mia passione. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti. E a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Non arrivi a finire la laurea che, come Ganta Kappa in cervello in fuga, lasci l'Italia. A soli 21 anni prendi una borsa di studio alla University of Texas, Austin, e te ne vai. Perché? Ma soprattutto, che bilancio dai dell'esperienza di studio italiana? Penso che sia stata uno degli elementi più importanti formativi per quanto riguarda poi quello che sono stato in grado di poter fare negli Stati Uniti. Ad Austin ti laurei nel 2002 con un Master in Computer Engineering e appena laureato ottieni una internship prima all'FX Palo Alto Laboratory, poi al Palo Alto Research Center, il più avanzato laboratorio di tecnologie informatiche e digitali. Come ci arrivi? Attraverso i professori con i quali avevo lavorato in Texas. Diversi progetti e diversi corsi mi avevano portato a conoscere la realtà della linguistica computazionale e i principali ricercatori in quest'ambito venivano appunto, erano al FX Palo Alto e al Palo Alto Research Center, e attraverso uno dei professori con i quali stavo lavorando abbiamo cominciato a lavorare a un progetto e si è trasformato in un internship e successivamente alla mia laurea in una vera e propria posizione di lavoro. E nel 2005 la prima fondamentale svolta: insieme a Barney Pell fondate PowerSet, la società che cambierà la vostra vita. Avevi 26 anni e come si apre una società negli Stati Uniti? Dove si cercano fondi per fare impresa? Il finanziamento l'abbiamo raccolto inizialmente da quelli che vengono definiti angel investors, quindi persone, altri imprenditori, finanziatori professionali che avevano riconosciuto il valore di questa idea e del team molto early on, nei primi giorni. In fase successiva abbiamo poi raccolto finanziamenti da veri e propri venture capital funds, quello ci ha poi permesso di crescere la società fino a quasi 75 persone all'epoca dell'acquisizione di Microsoft. Ecco, ci stiamo per arrivare, ma in due parole cosa produceva, cosa faceva PowerSet? Quello che noi avevamo creato era una tecnologia che permettesse un comprensione maggiore e migliore dal punto di vista del motore di ricerca, sia del documento su internet che del vero e proprio intento di ricerca che si nasconde dietro alle parole chiave che un utente immette nel motore di ricerca. Con una tecnologia innovativa, la promessa di un motore di ricerca che funziona meglio e che si adatta meglio alle esigenze dell'utente. Che conosciamo tutti e che attualmente si chiama Bing. Infatti all'inizio del 2008 Microsoft, una delegazione di Microsoft, fa visita a PowerSet, nel giro di pochi mesi vi acquisisce, tu resti nell'incarico di Principal Program Manager a capo della ricerca e sviluppo del progetto. Che effetto fa entrare con un ruolo così importante in una delle principali multinazionali? Soltanto la mia società crescere e arrivare al punto di flessione dell'essere ceduta a una multinazionale, ma anche quella dell'integrare il mio team all'interno di un organismo e di una società molto più ampia. Per 2 anni sono rimasto a capo di questa sezione. In realtà da subito era chiaro dal mio punto di vista che le spinte, le motivazioni che mi avevano portato a fondare PowerSet e che mi avevano generato moltissima soddisfazione venivano a mancare nell'ambito di una società grande come Microsoft. E ricordiamo, Lorenzo, ricordiamo che Bing attualmente è il secondo motore di ricerca a livello mondiale e l'hai inventato tu, ma a quel punto, l'hai detto tu stesso, dopo 2 anni te ne vai e la tua vita prende una svolta clamorosa che dimostra ancora una volta, anzi una volta di più, la flessibilità del sistema americano. Vogliamo raccontare cosa fai ora e come sei arrivato fino a Broadway, soprattutto cos'è Allegiance, a New American Musical? In maniera molto coincidentale mi sono avvicinato all'ambito della produzione teatrale a Broadway e ho riconosciuto i caratteri incredibilmente imprenditoriali di questa attività, la creazione di un'idea, la creazione di un team, la creazione delle risorse economiche e finanziarie, quindi del raccogliere i finanziamenti e poi quello del vero e proprio creazione di una affinità fra un consumatore e una brand o un prodotto. Quando andate in scena? Quando andate in scena con Allegiance? Allegiance aprirà il prossimo anno a San Diego all'Old Globe Theater per una pre-Broadway e nella stagione del 2012-2013 siamo in scaletta per aprire a Broadway. In bocca al lupo. Ora sei produttore teatrale, angel investor, consulente per lo sviluppo di numerose startups negli Stati Uniti, ma non solo. 32 anni hai solamente. Proveresti a fare lo stesso in Italia se qualcuno ti mettesse sulla macchina del tempo? Sapresti e potresti reinventarti continuamente, camaleonticamente, nel bel paese? Non c'è dubbio, credo che ci proverei, nel senso che è proprio la mia natura quella del costantemente trovarmi al di fuori del mio elemento, cercare sempre nuove spinte per imparare nuove lezioni, nuove cose, piuttosto che il trovarmi a rifare le cose che ho fatto in precedenza. Quindi questa spinta camaleontica, questa spinta di reinventarsi sicuramente è una parte della mia indole. Poi se avessi o no trovato le condizioni per l'aver avuto successo in Italia, direi che è una domanda che possiamo farci, ma non è facile trovare una risposta. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Manca questa cultura del rischio, che vede il rischio non soltanto come un'opportunità, ma anche come un fattore positivo, nel senso che il rischio tradizionalmente visto come la paura del fallimento è l'elemento che distrugge l'innovazione. La vera e propria opportunità è quella di riconoscere che il fallimento in realtà è un passaggio ed è un'opportunità di crescita e per imparare e che deve essere riconosciuto quasi come una mostrina. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della straordinaria vicenda di Lorenzo Tione, 32enne inventore del motore di ricerca Bing, attualmente proprietà di Microsoft. Tione è un produttore teatrale a New York. Dopo aver trascorso molti anni della sua vita in Silicon Valley, tra i fondatori della società PowerSet, è riuscito a traghettare la sua azienda fino all'acquisizione da parte del colosso fondato da Bill Gates, creando quello che oggi è il secondo motore di ricerca internet a livello mondiale dopo Google. Ed è qui con noi studio Gianluca Dettori, fondatore e presidente di Dpixel, società tecnologica italiana che tra le altre cose investe in startup tecnologiche e media. Buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio. Domanda a bruciapelo, un Lorenzo Tione italiano a lavoro nel bel paese sarebbe immaginabile? Certo, ce ne sono N di Tioni italiani. Diciamo un po' sotto traccia rispetto ai media, ma esistono. Riescono a emergere? Riescono a emergere nel senso che riescono ad avere successo indipendentemente dall'Italia. Indipendentemente dall'Italia. Premesso che per raccontare la tua di storia, Gianluca, ci vorrebbe un'altra puntata puntata. Un accenno però è dovuto, anche perché tu sei un pioniere di internet. Raccontaci brevemente. Ho iniziato, diciamo, la mia carriera professionale nell'internet quando era 1994 e i browser cominciavano a uscire in quegli anni. Ho avuto la fortuna di fare prima assistente marketing e poi direttore marketing e direttore commerciale e Italia Online, il gruppo Olivetti, il primo ISP commerciale italiano. Da lì direttore generale di Lycos, il primo motore di ricerca estero che aprì in Europa e in Italia, e poi dopo 2 anni ho fondato una società di musica digitale, Vitamini, che ebbe un discreto successo e tuttora oggi è una società quotata in borsa, si chiama Oggi Buongiorno, e leader al mondo nei servizi di contenuti digitali. Spiegaci ora meglio qual è l'idea dietro di Pixel, anche perché alla base c'è una concezione molto poco italiana: finanziare startup innovative superando la nostra cultura imprenditoriale punitiva, per cui se fallisci una volta sei fallito per sempre. Come investite? Su chi investite? Come si fa soprattutto venture capital? Io quando facevo il manager in Olivetti, ricordo la frustrazione di vedere i miei colleghi americani lasciare l'azienda per fondare startup e poi chiamarmi magari dopo un anno che si quotavano in borsa, e non capivo se ci fosse un problema intrinseco in me, cioè se io avessi un DNA, diciamo, minorato, tale per cui nessuno dei miei amici italiani, né tantomeno io, riusciamo a fare queste cose. Un giorno ho capito qual era la differenza e non c'era il venture capital. L'ho capito quando il primo fondo di venture capital italiano, guidato da Pioli, investì a livello seed nella mia startup. Quindi non ho fatto altro che ripetere, diciamo, la mia esperienza mettendomi dall'altra parte, fare l'investitore, consapevole del fatto che questa è una nazione piena di creatività, imprenditorialità, talenti eccezionali. Un'intera generazione, si può dire, diciamo, un po' negletta dalla società, ma che in realtà è nata con un computer in mano, che stanno ricostruendo e riscrivendo la tecnologia dei prossimi 20 anni, anche dall'Italia. Non è però scandaloso che il capitale di rischio in Italia rappresenti solo lo 0,005% del PIL e che sia un fenomeno praticamente sconosciuto? Non se ne parla mai. Sì, è scandaloso ed è sintomatico di quanto questa nazione sia una nazione orientata al passato, non è orientata al futuro, di quanto questa sia una nazione che non investe sul merito ma investe sulle relazioni, di quanto questo sia una nazione che non crede nei propri giovani, e questa è la cosa più grave e moralmente inaccettabile per quel che mi riguarda. Tu fai parte di una generazione giovane che guarda al futuro, aperta al mondo, alla globalizzazione. Tu stesso hai studiato negli Stati Uniti. La domanda è: riuscirete a farvi classe dirigente, e se ce la farete, in che modo cambierete l'Italia? Non lo so, a parte che giovane mi sembra una categoria... Per i parametri italiani sì. Sì, per i parametri miei non mi sento assolutamente giovane. Giovani sono gli imprenditori in cui investiamo. Noi, l'ultima società in cui abbiamo investito, il fondatore ha 22 anni. E d'altra parte tutte queste società che oggi sono leader al mondo sono fondate da ragazzi, da universitari, persone che stanno nella fascia tra i 20 e i 30 anni. Non si capisce per quale ragione qua in Italia non debba succedere. La domanda se questa, diciamo, se la nostra generazione, quella dei quarantenni, riuscirà a prendere il potere, diciamo, o comunque dire qualche cosa in questa Italia, francamente devo dire non lo so. Occorrerebbe veramente quantomeno che la generazione dei nostri padri e dei nostri nonni, che l'hanno devastata, avessero, diciamo, un sussulto di coscienza negli ultimi anni della loro pensione, di quantomeno riconsegnare ai nostri figli, perché ormai la nostra generazione non sarà in grado di fare nulla di immediato, ma almeno per i nostri figli una situazione meno catastrofica o, diciamo, devastata di quella attuale. Grazie a Gianluca Dettori, e forse una mano la potranno dare anche i nostri talenti espatriati che stanno all'estero, come Lorenzo Tione. Lorenzo, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Nell'ambito dell'imprenditoria il mio consiglio è quello di stare allerta, di riconoscere le opportunità che si nascondono dietro qualsiasi coincidenza e di essere pronti a prendersi un rischio, perché alla fine con passione, entusiasmo, talento e con olio di gomito si riescono a trovare altri che sono disposti a prendersi un rischio con voi o su di voi. Alla fine soprattutto riconoscere quella che è la tua passione e, come si dice in Silicon Valley, go for it o buttatici, e se vuol dire andare all'estero, Stati Uniti, Europa o Cina che sia, so be it. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi penultima puntata della nostra inchiesta sui programmi regionali per il rientro dei cervelli, oppure mirati a trattenerli in regione. Rosa Mastro Simone, assessore alla formazione e al lavoro della regione Basilicata, ci spiega il progetto Ponte per l'Occupazione. Questo è uno strumento assolutamente innovativo. Si tratta di un sistema attraverso cui questi nostri ragazzi per 2 anni fanno percorsi formativi però adeguati a ciò che è richiesto dal tessuto economico produttivo della stessa regione, in modo tale che il periodo finale di questi 2 anni termina con 900 ore, con uno stage presso le aziende, i centri di ricerca o gli studi professionali, oppure per coloro che sono più propensi per intraprendere un'attività imprenditoriale o di autoaffermarsi, c'è anche il modo per consentire loro di acquisire sia gli strumenti, sia le conoscenze che le competenze per poterlo fare. Dal punto di vista economico sono sostenuti appunto per 24 mesi, ma al termine di questi 24 mesi hanno anche un bagaglio economico che gli può essere utile sia per conferirlo alle aziende che li assumono a tempo indeterminato, sia per determinare appunto autoimpresa. Quanti giovani ne stanno usufruendo o ne hanno usufruito? I beneficiari che hanno iniziato il loro percorso lo scorso 16 di maggio sono circa 550. Quali sono anche altri progetti, sempre nell'ambito di far rientrare talenti giovani che hanno lasciato la regione o fare in modo di trattenerli? Dunque, abbiamo un altro progetto importantissimo che è quello delle Work Experience e anche questa prevede un'attività di tirocinio per 6 mesi, dopodiché l'eventualità che queste aziende on the job si rendano conto del talento di questi giovani e vogliono assumerli a tempo indeterminato, sono nelle condizioni di poterlo fare perché hanno uno sgravio del 50% del costo lavoro per i 2 anni successivi. È un problema che sentite, quello dell'immigrazione dei giovani lucani? Lo sentiamo fortemente. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.regione.basilicata.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.